si yo, viene lento divagar, una música brutal encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chiamatemi futile, chiamatemi sconsiderato, chiamatemi insensibile ai drammi che mi girano intorno, ma io questa mattina mi vergogno profondamente. Ho una vergogna tale che non riuscirò a uscire per strada. Sono arrivato con la radio rasente i muri. Cosa mi è successo? Questa mattina ho indossato nel sonno e nei fumi del Margarita che mi hanno seguito fino all'uscio di casa, ho indossato una camicia nera a righine grigie su dei pantaloni blu. E sono orrendi, sbattono. Ho chiesto stamattina a mia collega che ti sembra, mi ha detto fa schifo. E adesso cosa faccio? Posso andare a casa a cambiarmi? Comprerò una camicia qui sotto. Ci sono tutti quei bei negozietti davanti alla stazione Termini di cinesi. Vi comprerò una camiciola che stia bene con i pantaloni blu. Questo è il mio profondo senso di vergogna quotidiana. Invece, secondo qualcuno, dovrei vergognarmi per ben altre cose. Guardi Nicoletti, ho assistito alla trasmissione sul gioco e lo trovo assolutamente vergognoso perché non c'è stato assolutamente nessun contraddittorio, non avete parlato neanche di... avete parlato solo di una famiglia che si è rovinata col gioco, quante ce ne sono, quando ce ne sono tantissime. Il gioco molte volte, come lo shopping compulsivo, è associato alla depressione e non potete far passare il messaggio che giocare è bello, i soldi vanno guadagnati, bisogna dire alla gente che non deve farsi rubare né i soldi né il tempo davanti alla... come si dice davanti alla televisione, neanche davanti a un computer. Bisogna farsi rubare il tempo. Questo è il messaggio che deve far passare. Si vergogni perché non ha assolutamente messo in atto un contraddittorio serio in trasmissione. Diavolaccio, dovrei vergognarmi. E cosa ho fatto di male? Ho parlato del gioco. Ho aperto la trasmissione con la telefonata di un signore dalla famiglia rovinata, con la moglie in mano ai finanziari, agli strozzini, che giorno dopo giorno ha gettato al vento tutto il patrimonio familiare giocando con le slot machine. E cosa devo fare di più? Di fronte al dramma di quest'uomo che comunque si è tenuto la moglie come se fosse una criminale, un'assassina, che il marito difende al di là di ogni ragionevolezza, cosa che accade. Scusate l'impastamento vocale, ma già... vi ho spiegato quali sono le ragioni. E cosa devo fare di più? Mandare altre telefonate? Staffilare pubblicamente di fronte alla radio facendo sentire lo schiocco della frusta coloro che giocano? E perché devo condannare il gioco? Perché devo condannare chi gioca, chi si diverte, chi esce dal mondo, chi rompe con il velo la tristezza quotidiana? Io di questo non mi vergogno. Eppure la vergogna dovrebbe perseguitarci. C'è sempre qualcuno che ogni tanto ci punta il dito conto e ci dice vergognati. Ma di solito, almeno perlomeno, accade così a me. Non ci si vergogna mai per la ragione per cui gli altri ci istigano alla vergogna. Ci si vergogna per piccole inconfessabili cose, come la mia camicia nera a righine grigie con i pantaloni blu, per cose che nessuno capirebbe mai, nessuno condividerebbe mai. Le nostre piccole e miserevoli vergogne quotidiane sono quelle che veramente ci assatanano l'anima. Oggi c'è un pezzo del meraviglioso Giacomo Galeazzi sulla Stampa, colui che è la voce più attenta di ciò che accade oltre Tevere, e parla della crisi delle confessioni. Lo dice il Papa, lo dicono in tanti. I preti non dovrebbero mai rassegnarsi a vedere deserti confessionali. Nessuno si va più a confessare, quindi nessuno si vergogna più. Se uno non cerca, un fedele, un credente, la mortificazione e la catarsi del sacramento, la confessione, vuol dire che ci sono vergogne facilmente eliminabili, facilmente elaborabili attraverso altri sistemi che non la mortificazione. Eppure qualcuno ci dice sempre ti devi vergognare. Ma perché quando ce lo dicono gli altri noi non ci vergogniamo mai? Vergogna. Un senso di tristezza e di avvilimento che nasce dall'essere consapevole di aver commesso una cattiva azione. La vergogna è sì un sentimento di confusione e turbamento in una situazione di difficoltà per una persona, ma a differenza dell'imbarazzo, che si sperimenta esclusivamente in presenza di altri, ci si può vergognare anche da soli. Inoltre, mentre l'imbarazzo sorge per la trasgressione di regole comportamentali sociali, che possono anche non essere condivise, la vergogna è il segnale di rottura di regole di condotta personali e non condivise con la società. Otto zero zero ventiquattro zero zero ventiquattro. quali sono i motivi delle vostre profonde e insanabili vergogne. O quando vi sentite dire vergognati, per cosa ve lo sentite dire? È bello dire vergognati, è bello perché assolve chi lo dice, già mette dalla parte del giusto colui che dice all'altro di vergognarsi. Io nella vita, ci sto pensando adesso, mi sono sentito dire ti devi vergognare dalle peggiori persone, dai più terribili infami, ti devi vergognare di cosa? Vergognati, come riesci a dire vergognati a un altro? Chi sei tu per dire a un'altra persona deve vergognarsi? 800240024, a me lo dicono spesso. Siamo un gruppo di genitori che ha sorpreso i propri figli ad ascoltare la sua trasmissione a luci rossissime. Si vergogni trasmettere alle 10 quelle porcate quando ci sono dei giovani in giro. Vergognati, buffone, delinquente. Io farei un atto di modestia e vorrei veramente vergognarmi. Ho cercato di capire, tornare indietro con la memoria, facendomi aiutare da Fabrizio Intonti e Paolo Corleoni, perché si vergognassero anche loro, quali mai fossero le cose a luci rossissime che ho mandato io alle 10 di mattina. Ma ammesso che fosse non è, che io abbia mandato cose a luci rossissime, ma cosa fanno arrossire le orecchie? Perché le cose a luci rosse si guardano e probabilmente possono istigare a sensi di vergogna, che ha un profondo senso di pudicizia come base fondamentale alla propria esistenza. Ma cosa c'entra che ci sono i giovani per strada? I giovani per strada mi dovrebbero impedire di esprimere dei pensieri riguardo alla sfera, non so, della sessualità, della relazione. Forse la trasmissione in cui parlavo della facilità relazionale delle donne oltre una certa età. Pensate, dovrei vergognarmi di avere impugnato la bandiera delle cinquantenni che possono felicemente avere pulsioni sessuali al di là della ghigliottina emozionale della menopausa che imporrebbe loro di essere soltanto degli alberi secchi. Forse la signora che ha detto sono una figa di legno, ma l'ha detto una signora, una gentile signora cinquantenne, un'ascoltatrice, con il sinale davanti, con la padella, con dentro i sofficini pronti per il marito, cosa mai ci sarà di luci rosse? Eppure bisogna vergognarsi. Buongiorno signor segretario. Loro fanno parte, se non sbaglio, della commissione per la campagna contro l'Hula Hoop, vero? No signor segretario, io faccio anche parte della commissione contro l'Hula Hoop, ma in questo momento ci stiamo occupando soprattutto per il ritiro del manifesto. Il manifesto è già all'ordine del giorno, ma bisogna essere concreti, pratici. Che cosa abbiamo fatto noi di concreto e di pratico? Abbiamo raccolto 3.800 firme contro il manifesto. Sono tutti padri e madri di famiglia. Bene, bene. Questo documento è di estrema importanza per il sequestro del film in parola. Brave. Baronessa, mi raccomando, intensificare la lotta contro l'Hula Hoop con ogni mezzo. Sì, tranquillo. Grazie, brave, grazie. Arrivederci. Chi sono i tutori ufficiali, i baluardi e le salvaguardie alle altrui vergogne? Uno che profondamente incarna questa figura, autoproclamatasi poi come tale, è il moralista. Il moralista è quel meraviglioso film in cui Alberto Sordi è un delegato della commissione censura. Eravamo negli anni 60, quindi c'era un forte segno di tenuta nei confronti dell'esteriorità, dei costumi, della rappresentazione. Vergogna, almeno nella nostra condizione spazio-temporale, alle nostre latitudini, è equiparata sempre alla esposizione, al maneggiamento, allo sfregamento della propria carnalità più intima. Vergognoso è far vedere delle zone preposte all'uso sessuale. Questa è la vergogna per eccellenza. Infatti Alberto Sordi in questo si applicava. Pronta? La carne è il diavolo. Osceno e peccaminoso. Una pallottola per Gioe. Sciocco e violento. Una donna nuda, per carità. L'ha vista, signor segretario? Non c'è bisogno di vederla, no? Via, via, via, via. Ripugnante e molesto. La prima donna, assurdo e polemico. Torna a casa Lessi, altamente educativo. Caccia amore e fantasia, Topolino, idem come sopra. Mandi subito in tipografia, Leonora. Alberto Sordi deve andare a individuare i punti vergognosi nella rassegna dei film che gli vengono sottoposti. E naturalmente il moralista è il più grande cultore dell'impudicizia. Per censurare, per salvaguardare la moralità altrui, lui deve mettere il dito nella piaga purulenta delle vergogne esposte. Loro guardano? Sì. Danno il polso della moralità nel mondo. Questo, per esempio, mostra l'impressionante dilagare dello striptease. Spogliarello. In America e in Europa. Cifre terrificanti di figlie di Eva che si spogliano in pubblico. In privato purtroppo non possiamo controllarlo. Purtroppo, dottore. Questo invece mostra l'impressionante ed eloquente sintesi della lascivia che si scatena attraverso le varie danze, il rock and roll, cha-cha-cha, eccetera, eccetera, eccetera. Questo invece riguarda l'aumento della pubblicità attraverso il sesso. Una bocca che usa un dentifricio, una bocca che accende pensieri morbosi. Oh, certo, sì. Senza parlare poi dei vari costumi da bagno, reggiseni, giarrettieri o altri attrezzi, diciamo così, igienici. Igienici, ha detto. Era meraviglioso questo consesso di moralizzatori, tutti brutti, tutti sdentati, tutte vecchie, tutte con le calze elastiche contenitive, con gli occhialetti, con i capelli unti. Sembrava quasi che la mortificazione che impugnano come loro baluardo abbia corrotto i loro corpi. In realtà l'oggetto dei loro tagli, le loro attenzioni, ciò che vorrebbero censurare è l'immagine di felicità, di vitalità, di gioia e di allegria della vita. In che cosa posso servirvi? Io non ho il piacere di conoscerli perché occupo questo posto, diciamo così, da poco. Si tratta semplicemente del suo parere su questo manifesto. Di che prodotto si tratta? Oh, di una crema di bellezza. Scusino la mia ignoranza, ma dove verrebbe spalmata, diciamo così, questa crema? Ma sul viso, signor sul segretario. Collo. E l'ombelico che c'entra? Hanno lasciato scoperto l'ombelico? Per forza. Per attirare un po' l'attenzione, no? Per me va tutto bene, ma io l'ombelico. Come sarebbe? Coprire l'ombelico. Ma bisogna rifare tutto. Manifesti, tubetti, vasetti. Sono milioni e milioni di lire. Scusino, loro mi hanno domandato un consiglio, io l'ho dato. Io dico via l'ombelico, per il resto non sono competente. Dico, non vorrà mica metterci tutti nei guai. Davanti alla nobiltà della mia missione io non riconoscerei neanche mio fratello. Via. Teresa, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Nicoletti. Davanti alla nobiltà della mia missione sono costretto a farle confessare le sue vergogne. Dunque, io lascio i preamboli, quindi se io ascolto la sua trasmissione, la vostra trasmissione, è chiaro che è una trasmissione... È chiaro che è una svergognata, se no non l'ascolterete. Allora, io ho poche certezze, cioè certezze poche, però la certezza assoluta che ho in quanto provata anche da bambina, fatemi provare per delle sciocchezze, tipo i compiti non fatti, ecco. Ecco, io allora sostengo e ho imparato a non usare più, a togliere quasi dal vocabolario la parola vergogna, perché per me far provare la vergogna di dire vergognati a qualcuno è la cosa più aberrante che si possa fare a un figlio, a un amico, a chi che sia. Anche perché, scusi Teresa, non ci si vergogna mai per imperativo categorico. La vergogna viene da sola. Io mi trovo, esatto, mi esatto, tolgo le scarpe, c'ho un calzino bucato, ma mi sotterrerei sottoterra. Mica perché uno mi dice vergognati. Esatto, esatto. Infatti uno deve, se prova vergogna, è una cosa che è una cosa intima, è una cosa che la deve, cioè la sente e sente di fare un qualche cosa che non va bene. Al momento stesso in cui un genitore, e io parlo proprio per esperienza, perché cioè dire vergognati un po' è una coercizione. Cioè una coercizione, ecco, vergognati per questo, vergognati per questo, è la cosa più aberrante, la cosa più proprio brutta e che non si dovrebbe mai far provare. Lei per cosa nessuno si vergogna, Teresa? C'è qualcosa che la fa vergognare? No, nulla al mondo è impossibile. Confessate le mie vergogne oggi. La camicia orrenda sui pantaloni blu è una vergogna. Io le dico una cosa che magari le potrà sembrare una sciocchezza. Io mi vergogno quando faccio un qualche cosa per la quale so che i miei figli, ad esempio il mio figlio grande, non è d'accordo. Tipo, mi vuol vedere curata, mi vuol vedere magari tenuta bene perché ci tiene. Io magari sono in un momento un po' particolare. Tipo non la vergogna della ciabatta, su, lo sappiamo. Ecco, esatto, la vergogna della ciabatta, ma con questo premetto che non me lo fanno, cioè non mi dice mamma vergognati, guarda come sei, perché io... Ma basta un'occhiata, uno lo capisce, ecco, le mogli dicono sempre cosa c'è che non va, perché mi guardi così? E subito ecco, penso, questo fai paragoni. Oppure vederlo, e questa è la cosa che mi fa più male, oppure vederlo magari immagonato perché mi vede un po' sciatta, ecco. A sto punto quando esce... Comunque vedo che i figli sono la linea di discrimine per il mondo, per lei, con il mondo, quindi l'occhio del figlio è l'unica cosa che potrebbe farla vergognare. Poi esiste, ecco, cioè anche io quando altro escono, che poi ripeto, soprattutto il grande, però quando escono e li trovo e vedo che hanno, io li chiamo occhio di cocker, cioè sono un po' immagonati perché magari mi hanno visto magari sciatta, quindi pensano che io non stia bene o che abbia qualche problema, ecco, io mi vergogno perché in quel momento so che ho fatto un male, poco ma comunque male. Teresa, a la saluto e la seguo perché sta parlando troppo Giuseppe Neri, buongiorno. Giuseppe Neri, neuropsichiatra, vicepresidente Società Italiana Neurologi Ospedalieri, nostro psichiatra di soccorso in momenti come questi. Giuseppe, dire vergognati è un atto veramente pessimo nei confronti del nostro prossimo. Beh, sai Gianluca, tu mi hai fatto, senza saperlo, un regalo, perché io scommetterei che il signore di cui hai mandato la registrazione abbia molto a che fare, come provenienza, con il mio professore di liceo, nel senso che tu parli sempre della Perugia degli anni, fine anni 50-60, e a me è sembrato di essere tornato a Reggio Calabria in quegli anni, sentendo quel signore. Probabilmente non siamo molto lontani. Vabbè, sai, la provincia nel rinfacciarti ciò di cui dovresti vergognarti, uguale, penso, in tutto il mondo. Io mi sono sentito dire vergognati da quando ero bambino, lungo le strade corrotte di quella città, quindi figuriamoci. La cosa interessante è il concetto di vergogna dal punto di vista, secondo me, anche etimologico, perché viene da vereor. E se uno ci riflette un momento, pensando al fatto che ha un participio passato che è veritus, veritas, ti fa pensare a questo legame stretto fra rispetto, timore, rispettoso, ma soprattutto il concetto della regola, del fatto che sia stata infranta una regola che ti sei dato o che fa parte del consorzio. Sì, ma la regola fa sempre parte del mondo di colui che ci svergogna. Non è detto faccia parte, non è una regola assoluta. Quello, vergognati perché ci sono i ragazzi in giro per strada e tu gli dici le cose a luci rossissime. L'unica luce rossa è quella che vedo accesa al di là del vetro. Lì torniamo veramente nei confini sfumatissimi fra la capacità di intercettare precocemente alcuni disturbi di personalità e la possibilità poi che questi invece si esplichino anche in età adulta, perché insomma, come diceva qualcuno nella Roma degli anni 70, ci sono grossi problemi dietro un discorso come quello di quel signore lì. Comunque, e c'è del marcio a Melog. Scusa un attimo, tanto rimarrai con noi per un altro po', Giuseppe. Vedo Matteo che sta scalpitando, sì, da qualche tempo. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Lei è uno svergognatore o un vergognato? Ma diciamo che io mi vergogno, come diceva lei, se c'è un qualcosa che so che non è a posto di mio, quindi mi vergogno da solo. Ma lei direbbe a qualcun altro, vergognati. Se qualcuno me lo dice, non mi interessa. Sì. Io l'ho detto anche a politici, in diretta, in radio, come anche in televisione, sempre attraverso telefonicamente, perché naturalmente non ero presente. E quelli saranno messi a piangere dalla vergogna, mi immagino. No, non si sono messi a piangere. Poi io ho spiegato la mia storia. Ho detto, per esempio, prima di Natale a un esponente di un partito che faceva tanto il grande per Natale, e io gli ho esposto la mia storia, che la mia azienda non mi pagava da circa 6 mesi. Circa 6 mesi non sapevo cosa fare, di regalo una cosa più stupida possibile alle mie bambine, e questo che si arrampicava su vetri. E io gli ho proprio detto: beh, lei se l'ha buttato, scusi, con tutti i soldi che prendi non avete ancora fatto niente, né per la crisi né per nessuno, pensate solo a voi stessi. Sì, ma è un'arma scorretta, le ha messo davanti. Chiamare vergogna su una storia, rispetto alla sua storia, però la giocata pesante sotto Natale, ha tirato fuori lo stipendio, i bambini così, quindi ha messo sul piatto qualcosa di forte, una storia forte. È quello che tutti hanno davanti agli occhi, ma nessuno lo dice mai. E infatti è quello che io dico. Ma la sua non è un richiamo alla vergogna spinto da un principio morale che vede infranto. Lei è da una sua situazione reale, contingente, dolorosa. Io anche tuttora, anche se avessi lo stipendio, direi lo stesso vergogna, perché tutti parlano tanto della crisi, parlano tutti di tutto. Tutti parlano che nessuno arriva a fine mese, ma se lei guarda, tutti i parlamentari prendono 12.000 euro al mese. Vabbè, quello. Vanno da destra a sinistra. Basta guardare nel Partito delle Libertà che c'è un ex radicale che non ha mai lavorato in vita sua, parla del lavoro, e adesso da radicale, siccome è stato buttato fuori, è stato rimesso dentro nel PDL. Adesso io mi dovrei vergognare perché ha detto questo. Certo, no, è la persona che si deve vergognare. Sì, vabbè, ma adesso scusi. Sì, no, lei, ho capito. Io non ho niente contro nessuno. No. Ma se io sono di idea comunista, non posso pretendere. Per qualcuno dovrebbe anche vergognarsi di questo, pensi? Vede com'è valido. Un comunista si deve vergognare se alla fine del mese, quando prende 12.000 euro come parlamentare. Sì, vabbè, questa è una lettura un po' vecchia. Dividerlo, scusi, con gli altri, perché questo è comunista. Sì. Vabbè, ma dove sta scritto? Sì, questa è una favola che ce la siamo sempre detta, ma nessun comunista ha mai pensato di dividere con gli altri il suo stipendio. Questo, sono cose che si dicono, capisco, però mi sta portando fuori del seminario, non voglio dare l'impressione che la censuri o la seghi, però lei ha approfittato di questo momentino in cui doveva parlare della vergogna per fare un suo piccolo proclama politico. L'ha fatto, non dico si vergogni, ma un'altra volta magari non lo faccia, se non la seguo in anticipo. Me Melog 2.0. Vergognati! Questo è il senso della trasmissione, questa è la frase che dovete sentirvi dire nelle orecchie. Se volete raccontare quali sono le vostre vergogne, vi leggo qualche vergogna di coloro su Facebook che stanno rincorrendo le altrui vergogne. Mi vergogno che il nostro ministro stia provando di lanciare il turismo in Italia. Ecco, queste sono finte vergogne. Coloro che fingono di vergognarsi per problemi civili, come il signore prima che ci aveva proprio in bocca, non vedo l'ora di dire, e non so con chi se l'è presa, con quale politico, non me ne importa nulla, né difendo né assolvo. La politica è qualcosa che è lontanissimo dai miei interessi e dalle mie lussure, ma non perché voglio essere disimpegnato, che uno non può nella vita occuparsi di tutto. Ecco, la gente che si portano ascensori pubblici della politica, facciano la loro attività personale, quotidiana e civile, ma non ci ammorbino con i loro sensi di vergogna altrui. Poi Sebastiano: ci vergogniamo quando non corrispondiamo alle aspettative degli altri. Quanto è vero, Sebastiano, molte volte altri aspettano noi delle cose che non siamo in grado di dare e moriamo di vergogna. Poi Massimo, un altro Sebastiano, Massimiliano: sentire messaggi degli odiatori mi viene in mente il quotidiano odio di Melog dell'anno scorso. È vero, l'anno scorso avevo dato gloria all'odio e mi piaceva molto crogiolarmi nell'odio altrui, ma non mi vergognavo. Non mi vergogno, dice Manuela, poi ci sono fatti miei privatissimi, ma quella non è vergogna, è senso del privato del quale non c'è da vergognarsi. Poi qualcun altro dice che bisogna vergognarsi, tenere i figli in casa e non mandarli a giocare, ma non è che ci si vergogna, se lo si fa mica perché si è sadici, perché la vita a me ci impone di tenerli come cricetti in casa, che dobbiamo fare tra non dar loro da mangiare e tenerli in casa davanti alla televisione. È chiaro che uno preferisce la via meno cruenta. Marco: il mio stile di vita è predisposto in modo per cui io non mi debba vergognare mai di niente, al massimo che sono un consumista radicato. Ma no, non bisogna vergognarsi di essere comunisti, consumisti, non facciamoci venire i sensi di colpa. Beh, detto questo, devo farvi sentire una meravigliosa icona dei sensi di colpa, delle vergogne indotte e soprattutto di quando, sin dalla tenera età, in tempi in cui era molto facile sentirsi continuamente questo senso di vergogna proveniente soprattutto da un certo côté dello spazio pubblico, in 8:30 di Fellini, il protagonista un giorno con i suoi amici non va a scuola, Marina la scuola, va a godersi il meraviglioso spettacolino della Saraghina, un'abbondante prostituta che danza in maniera lasciva sul bordo della spiaggia, ma i preti tutori dei ragazzi li colgono sul fatto orribile e naturalmente li casteranno per il resto della vita. Saraghina! Saraghina! Saraghina! Saraghina! Maruma! Maruma! E chi è qui? Vergognati, vergognati, vergognati. È un peccato mortale, è un peccato mortale. Non ci credo, non è possibile, non ci credo, non è possibile. Guarda tua madre, guardala. Mamma, fermati. Oddio, che vergogna. Che vergogna, che dolore. Oh, che vergogna. Ma non lo sai che la Saraghina è il diavolo? Non lo sapevo, non lo sapevo proprio. Giuseppe Neri, così poi tagliamo la testa al toro e non ne parliamo più. Quanto il senso profondo di vergogna che vorrebbero instillarci gli altri è legato alle nostre curiosità carnali, all'esplodere la sessualità in un ragazzino, in un adolescente, e quanto la parola vergogna di poi ha creato, ahimè, delle persone poi incapaci di amare, di relazionarsi, di essere felici e dare felicità. Beh, tu hai colto nel segno, perché se ci pensi... Beh, ho una certa esperienza di queste cose. Nel linguaggio corrente usano proprio il termine coprirsi le vergogne per dire non esporre i propri organi sessuali in pubblico. Quindi questo è strettamente connesso con la parola vergogna. D'altra parte... Sì, ma qual è la differenza sostanziale organica tra un pisello e un'orecchia? Il tipo di coloritura emotivo-affettiva che noi siamo stati abituati a attribuirgli. È soltanto con la asepsi e la sterilizzazione lessicale che deriva dalla denominazione scientifica e anatomica che riusciamo a depurare una parte anatomica che è l'organo sessuale da un'altra parte anatomica come l'alluce o il lobo dell'orecchio. Io sono d'accordo, Giuseppe, che certe parti, certe esposizioni, certe pratiche, certe piacevolezze per lo sguardo e per il tatto siano mascherate da un alone vergognoso, se no non ci piacerebbero. Io odio l'esposizione nuda e cruda, odio la cosiddetta liberazione. Tutto questo ci compiace, ci ha aiutato nell'esistenza a avere dei barlumi di felicità e di piacevolezza. Però qual è il punto di caduta per cui questo alone di vergogna, che è la parte piacevole della vergogna, il lato buono della vergogna, diventa qualcosa che ci ammazza la vita? Beh, per il fatto che, se andiamo al succo del discorso, la vergogna ha a che fare molto di più che con le regole, con le norme, con le trasgressioni, ha a che fare per noi col concetto che abbiamo di noi stessi. Perché se ci costringono a vederci con gli occhi degli altri e a riconoscere quindi che c'è una discrepanza tra il modo in cui gli altri ci percepiscono e il modo in cui noi ci percepiamo, allora questo ci destabilizza completamente. Per cui, se riusciamo ad accettare le esperienze tra virgolette vergognose, allora siamo incapaci di accrescere la nostra consapevolezza e anche di elaborare in senso di trasformazione questo dato. Se invece noi le neghiamo o cerchiamo di rimuoverle, allora ci costruiamo una corazza difensiva che è tanto più spessa quanto maggiore la debolezza che dovrebbe proteggere. Adesso dimmi due parole rispetto a chi dice vergognati. Quando uno dice vergognati, in realtà è lui stesso che si vergogna di qualcosa. Beh, sta, diciamo, proiettando su di te tutta una serie di condizioni e di vissuti che fanno parte del suo modo di approcciare la realtà. Ma d'altra parte, tu l'hai, secondo me, molto ben fotografato anche con l'epoca, quella del film di Sordi, del muralista, che ha, secondo me, in alcune fasce di società e in alcuni luoghi fisici tuttora, sopravvivono anche al passare di quasi mezzo secolo. Beh, guarda, adesso non voglio entrare in vicende molto delicate che altri stanno trattando meglio di me, ma viviamo nella nostra contemporaneità, nel nostro paese, nel nostro momento, in qualcosa di molto simile. Tu guarda, questi giorni i giornali sono pieni di una vicenda comunque legata, non voglio entrare, ripeto, in merito, a un'esposizione tipo sessuale. Non si fa altro che parlare di un puttanaio continuo che tocca eccelse persone, siamo d'accordo, ma alla fine tutti vogliono dire vergognati per una questione legata alla carnalità. Lo capisco, ma sai, a me viene in mente quel sociologo polacco che sta in Gran Bretagna, che si chiama Bauman, che è quello che ha scritto quel bellissimo libro che si chiama Sigmund Consumo Bauman. Dunque sono. Io esisto in quanto posso consumare. Se noi avessimo oggi un contesto sociale in cui ha senso che io rifletta su ciò che si dirà di me fra un mese o fra un anno, questo concetto della vergogna avrebbe un certo peso. Secondo me invece, come dice giustamente Bauman, noi viviamo istante per istante, secondo per secondo, non c'è più un tempo lineare. Sì, lui ha anche scritto amori liquidi, come la società liquida. Esatto, che è tutto scorre e tutto passa, chiaro? Esatto. Sentiamo Barry. Barry, buongiorno. O Barry, non so. Buongiorno. Buongiorno. Lei di cosa si vergogna? No, a me non è che mi vergogno di niente. A me mi è capitato di vergognarmi una volta di essere straniero. Cioè, mi sono trovato in mezzo a un gruppo di ragazze che diceva fa buona la Lega, voi ve ne dovete andare. Poi ho sentito un senso di impotenza, di vergogna, perché non poteva neanche replicare una situazione, visto che io sono così integrato bene in Italia, ho tanti amici italiani. Ma perché si vergognava lei? Scusi, devono essere gli altri a vergognarsi di discriminarla. Se lei stava lì al suo posto, stava tranquillo, faceva la sua vita, non dava fastidio a nessuno, per cosa doveva vergognarsi? Abbia pietà e compassione di chi si comporta così nei suoi confronti, se può, ma non è questo. Io mi sentirei spaventato, avrei paura. Se io mi trovassi in Brasile, è brasiliano, mi dice, mi sembra. Sono brasiliano. Mi dicessero vergognati tu che sei italiano, avrei paura. Cercherei di nascondermi, ma non mi vergognerei affatto. Io non mi vergogno di me stesso. No, perché la vergogna è questa, è il messaggio che dà tante volte la politica. Io mi sono rimasto impressionato con questo tuo ospite che ha detto che la parola vergogna è legata alla verità. Cioè, io penso che, come tu hai accennato, pure il fatto che è coinvolto Berlusconi, e penso che la vergogna non è si atti carnale. La vergogna di Berlusconi sarebbe quella politica. Sì, ho cioè, capito. Il fondo Pax che venne rubato dal sud e sì, vabbè, adesso... dal nord venne dato. Cioè, avete una gran voglia di parlare sempre degli stessi argomenti. Avete tutto avuto tutto l'elefante per parlare di questa roba. Adesso non è che voglio sottrarmi, ma cercavo di portare il tema a volte su un senso un pochino più fondo, un po' più staccato alla contingenza. Sì, la questione Berlusconi è nota, è su tutti i giornali, è in mano a chi la sta trattando. In questo momento sto parlando di vergogne individuali, non mi faccio né paladino di chi impugna le vergogne pubbliche sono qui per assolvere i comportamenti fisici e sessuali dei personaggi della politica, sono fatti loro, non mi interessa. Ci sto parlando del senso di vergogna di coloro che dicono vergognati, come se fosse un imperativo categorico dovrebbe fulminare la persona. Luisa, una battuta? Mi vergogno solo di non avere cultura. Si sente ignorante? Molto, ho la cultura da settimana enigmistica. Ma guardi, anche io ho studiato pochissimo, ero sempre l'ultimo della classe. Mi sono laureato con un'intelligenza diversa. Vabbè, ma lei mica scema lei, perché sì, io intelligenza, io sono come lei. No, bisogna buttarsi, no, guardi, le dico una cosa, no, non so che differenza dell'intelligente non banale. No, signora, è solo questione di buttarsi. Se lei sia meno vile nel buttarsi di fronte alle persone, abbia più faccia tosta e vedrà che nessuno si accorgerà mai che lei ha studiato poco. Oggi siamo talmente imbevuti e contaminati di nozioni, vede, tutti possono parlare di politica, ognuno si sente in diritto di essere giudice dei massimi sistemi della politica solo perché lo legge nei giornali, lo sente dire alla radio, lo vede in internet. Quindi la cultura ci contamina, la civilizzazione ci contamina, e quindi probabilmente tutti possiamo bluffare come faccio io ogni mattina. Parliamo di vergogna. Mi ha fatto tenerezza la signora prima che dice mi sento ignorante. Ma come si fa oggi a sentirsi ignoranti? Guardando la televisione, leggendo i giornali, non vi rendete conto che è tutto un grande bluff, è tutto un grande imparaticcio, è tutto un grande copia e incolla? Ma dove esiste la cultura? Da che parte sta la cultura? Negli atenei, nelle università, nei saggisti, in coloro che scrivono, in quelli che vanno a parlare in televisione, gli editorialisti sui quotidiani, nei settimanali, quelli che parlano alla radio? Non esiste cultura. Io sono un grandissimo bluff, lo ammetto senza vergogna. Ammettere ciò di cui dovrei vergognarmi è la maniera più sublime per affrancarmene, come la camicia stonata rispetto ai pantaloni di cui mi vergognavo. L'ho detto alla radio, ne vado fiero, non vedo l'ora di uscire e mostrare a tutti l'obbrobrio della mia camicia sui miei pantaloni. Ho già elaborato questa vergogna, cosa che non accade in realtà nell'uomo medio, nell'uomo comune, che è sempre a fare i conti con il suo senso di inferiorità. Se capisse che il mondo è sempre inferiore, che il prossimo è sempre inferiore, non è vero così, ma bisognerebbe porsi di fronte a questo punto di vista, non farebbe quello che fa Fantozzi quando va in un camp con la famiglia. E l'orrendo, irsuto, peloso e bestiale signore che prova a insidiargli la moglie, lui lo tratta come un villano, come un buzzurro, ma in realtà è un raffinatissimo intellettuale che si nasconde sotto i peli delle ascelle e sotto la puzza e l'orrore. E questo, per mortificarlo, gli fa una specie di interrogatorio sulla cultura e lo chiama a rispondere su termini per il povero Fantozzi totalmente astrusi. Cultura letteraria? Sì. Scientifica? O spicciola? Sono tre buste, no? Cos'è la prostata? Dunque, sì, la prostata è facile. Ecco, dicesi di donna molto prostra. È una posizione... donna in stato di adorazione. Mi sovviene. È un dolce. Lo faceva anche mia mamma. È la prostata. La prostata si può fare di metilo, di pera... l'imperatore romano, l'eresiarca bizantino, Giuliano la prostata. Giuliano. Adesso hai capito che merdaccia sei. Chi tutta la vita punta il dito contro gli altri, dice vergognati, in realtà probabilmente è il più sublime, il più profondo, il più scellerato degli ignoranti. Soran, buongiorno. Buongiorno. Soran? Sì, Soran. Ah, sì. Soran, allora. Sì. Buongiorno, niente, intanto devo dire io ormai da moltissimi anni vivo in Italia e lo invidio ogni volta che le ascolto per la sua ricchezza del linguaggio. Lei è curdo? Lo invidio, sì. No, mi allora, fa piacere che telefonano persone di una varietà di provenienza etnica meravigliosa. Stamattina ho avuto un brasiliano e un curdo. Ieri ho avuto... sono molto contento di questo. Bene, fa piacere personalmente, poi lo sento spesso la sua trasmissione, giustamente il tempo che è possibile. Allora mi parli della vergogna per i curdi. Ecco, guardi, niente, io quello che quando sentivo la trasmissione mi sono cercato di capire in lingua curda come viene detto. È vero che da 30 anni che manco, però la parola non esiste, proprio non esiste come linguaggio. Quindi i curdi sono senza vergogna. Senza vergogna. Quindi è una parola che non viene usata. E spesso io, che porto quasi il discorso anche di mia madre come la mia educazione, io sento di parlare con mia madre molto liberamente perché lei non mi giudica. Questo un po' mi porta a pensare che ingenuamente probabilmente noi non giudichiamo. Sì, ma cos'è assimilabile a quello che noi chiamiamo vergogna? Il concetto lo capisci. Vergogna ti vuol certo. dire fai qualcosa diciamo, che è contro la regola. Mi diciamo una parola che si può più essere avvicinato. L'italiano è l'imbarazzo. Ah, l'imbarazzo. La parola, esatto, non viene, cioè la parola vergogna in italiano è molto forte come termine. Sì, perché l'imbarazzo è legato a piccole trasgressioni. È imbarazzante se uno si accorge di avere una macchia sul vestito. Ma è vero, però come dire, anche quando c'è, ovviamente accadono tanti fatti, come dire, probabilmente nel linguaggio non c'è quel giudizio così forte, come dire, c'è un richiamo più che un atto così forte di vergogna nei confronti della persona. Sentiamo Giuseppe Neri. Giuseppe, ci sei ancora? Assolutamente. Cosa trovi di questa meravigliosa civiltà in cui non esiste il termine vergogna? È stupendo, perché ti dà l'idea di, come dicevamo in un'altra trasmissione, del quanto siamo impregnati noi da questa nostra cultura, che fa parte della nostra storia, che non va negata. Ma noi col sistema della washing machine, cioè del lavaggio delle nostre coscienze, perché ci possiamo sempre confessare e rifarci una verginità, abbiamo un imprinting tale che fa parte della nostra esistenza dalla nascita, dalla culla alla tomba. Quindi si può vivere in una società in cui non esiste il senso della vergogna? Voglio dire, senza pensare sia una società libertina, come verrebbe da pensare subito. Al di là del Kurdistan in Oriente è abbastanza diffuso, non è soltanto limitato a quelle aree. Chiaro, certo. Carlo, buongiorno. Buongiorno a lei. Ho sentito un attimo dire qualcosa un attimo fa di cui ho perso i contorni, ma comunque... È un signore curdo, mi dice che... No, lei ha detto qualcosa sulla vergogna, l'ha definita in un modo... Cioè, proprio un attimo fa... Ha dato una definizione di vergogna con la quale non sono. Non so, io non, guardi, parlo, comunque, parlo il sugo del mio discorso per pura brechezza, quindi non ho appunti. Comunque non ti preoccupi, glielo dico in due parole, sì. Non le faccio perdere tempo. No, secondo me la vergogna mio non tempo è a sua disposizione. Mi scusi? No, mio tempo è a sua disposizione in questo momento. Gentile, grazie. La vergogna è un qualcosa che richiede due persone. Una che fa qualcosa e una, tra virgolette, a cui viene attribuito il potere di giudicare. Uh-huh. No? Cioè, io posso vergognarmi con me stesso perché c'è una fetta di me che mi dice brutto cattivo. La società si mi fa vergognare se io faccio qualcosa davanti a una società di persone del cui giudizio ho timore. Però, o di cui ho una stima tale che mi dispiace che pensino male di me. Giusto? Certo, sì. Il fatto è che se non c'è nessuno sulla faccia della terra della cui opinione mi importa una pipa di niente, uh-huh. non c'è più nessun tipo di legame sociale, finisce tutto. Se io posso fare e dire e pensare qualunque cosa in qualunque modo, perché tanto di quello che pensano gli altri di me non me ne può fregare niente nella maniera più totale. Beh, io secondo me è una condizione abbastanza di facilitazione della propria vita, non bisogna essere indifferenti. Per quindi... carità, ma sarà una bellissima facilitazione della mia vita, però vorrà dire che gli altri per me non contano niente. Ma no, non io esistono. Guardi, per me gli altri contano tantissimo. E allora fa a non avere in qualche maniera un minimo di riguardo per quello che possono pensare e per come lo pensano? Ma io ho riguardo e considerazione e tolleranza. Non permetto che il giudizio degli altri leda la mia sfera emotiva. Me ne sbatto le palle, scusi il termine, però è così. Ma è una cosa un po' diversa, no? Questo non significa che sono una sociale. Io rispetto il pensiero degli altri, figuriamoci. Sì, ho fatto un anno, ho fatto una pubblica esposizione di tutti quelli che mi odiavano, figuriamoci, li ho glorificati. Ma quello che voglio dire è che non so come dire, se l'effetto del pensiero degli altri su di me è sempre zero, no? Non è zero, ne tengo conto, lo elaboro. Possibilità di intervenire. Ma no, quando io quasi parlo di una cosa molto lucida, quando l'altro dice vergognati, A me già questo crea una assoluta incomunicabilità con l'altra persona. Capisco che lui ha dei sistemi di riferimento diversi da me, per cui dovrei vergognarmi. Ho tenerezza e comprensione per lui che fa del ragione della sua vita dire agli altri se debbano vergognare, però non mi vergogno. Mi vergogno per un'infinità di altre cose, ma mai perché qualcun altro mi dice vergognati. Anch'io provo un'infinità di vergogne. Alain, chiudiamo con lei. Buongiorno. Lei da dove viene? Vengo dal Congo, Congo francese. Ah, bene, oggi benissimo. Mi piace la missione cosmopolita. Alain, lei si vergogna dalle vostre parti? Usa il termine vergogna. Sì, ma io direi che la vergogna va insieme con il pudore. Perché questo? Perché sennò si salterebbe certi limiti. Cioè, non lo so se magari riesce a immaginare un figlio, se non ci fosse questo limite di pudore e di vergogna di un figlio di vedere la nudità, per esempio, della sua madre. Si salterebbe certi limiti. Sì, questo entra nelle regole del vivere civile. Io non sono paladino di una vita spudorata. A me solamente non piacciono le persone che puntano il dito contro gli altri con vergogna. Di questo era il senso della trasmissione. Sono d'accordo, ma scherza. Ci sono delle regole del vivere civile. È il censore che opera in difesa del proprio senso del pudore, non di un senso pudore generalizzato. Noi dobbiamo tenere sempre conto di una generalizzata cultura in cui ci muoviamo. Ci sono parti del mondo dove andare in giro con un gonnellino non porta nessuna vergogna, altre parti in cui è necessario, se io vado alla camera devo mettermi la cravatta, è logico, fa parte del protocollo. Mi vergognerei arrivare lì senza cravatta. Esiste l'espediente che molti giornalisti parlamentari usano, di togliersi un calzino e andarselo al collo, pur sempre una cravatta, anche se è un vergognoso espediente. Ho voluto giocare un po' con lei, giocare con chi ci ascolta. Ringrazio Giuseppe Neri e la voce che mi ha lasciato proprio nel momento in cui dovrei maggiormente vergognarmi. L'appuntamento è per la prossima settimana, l'ultima. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.